è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.38, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Iniziamo subito con il TG2. A Berlino la manifestazione per i 20 anni dal crollo del muro, la Merkel attraversa con Gorbaciov e Walesa il primo varco aperto nell'89, anche Berlusconi nella capitale tedesca. Primi indagati per la morte di Stefano Cucchi, omicidio preterintenzionale, l'accusa, polemiche per una frase del sottosegretario Giovanardi, morto perché drogato e anoressico. Delitto di Via Poma, dopo 19 anni rinviato a giudizio Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. La moglie è perseguitato e distrutto, vogliono un colpevole a tutti i costi. Michael Jackson al vertice delle classifiche musicali in 16 paesi. Negli Stati Uniti il re del pop è in testa anche al box office cinematografico con This Is It. Allora, vorrei trovare questa sera una persona, vi prego, una persona che voglia fare il bastian contrario, che voglia dire qualcosa di diverso rispetto a quello che dirò, che spero sia largamente condiviso, ma non lo so, ci potrebbero essere anche delle sorprese. La frase incriminata è quella di Carlo Giovanardi. Carlo Giovanardi che dice alla delega all'antidroga, alle politiche antidroga della presidenza del Consiglio, è sottosegretario, è uno di quelli con una concezione sempre punitiva, chiamiamola così, nei confronti del consumo, nei confronti chiaramente della droga e in generale dello spaccio. E l'ha detta questa mattina qui a Radio 24 durante la trasmissione condotta da Alessandro Milan, secondo me è quasi incommentabile, però ripeto, vorrei trovare una persona, una, perché altrimenti ci annoiamo, che invece condivide queste posizioni. Secondo Giovanardi, Cucchi è morto fondamentalmente perché si drogava. Stefano Cucchi era di casa perché spacciava, era uno spacciatore abituale, poveretto è morto, la verità verrà fuori come, soprattutto perché era 42 kg, lui la droga ha devastato la sua vita, era sieropositivo, comunque era tossicodipendente, questo era neuressico. La famiglia l'ha smentito questo, eh? No, la famiglia non l'ha smentito niente perché è stato in comunità, lui aveva dei grossi problemi. Sulla sieropositività. Poi il fatto che sia, in quei 5 giorni peggiorato, certo che bisogna vedere i medici come l'hanno curato, purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve. Ora, l'unico mio commento è questo: cosa c'entra quello che può essere accaduto o non può essere accaduto naturalmente a Cucchi con la droga, cioè col fatto che era tossicodipendente, non si sa fino a quale punto, sieropositivo, ma in realtà la famiglia smentisce. La cosa sarebbe diversa se poi l'inchiesta proverà che in realtà non è morto per le percosse, ma è morto per altri motivi collegabili al suo stato fisico, ma Giovanardi questo non può saperlo. Dunque, perché queste certezze, perché questi, non dico insulti, perché queste considerazioni pesanti su un ragazzo, su una famiglia? 800 24 00 24 l'imbecillità di quelli che tirano i sassi alla polizia approfittando della vicenda Cucchi, perché qui non c'è la protesta contro eventuali violenze da parte delle forze dell'ordine, non c'entra nulla, è il pretesto per fare casino. È finita così, con i cassonetti in fiamme, la manifestazione romana per chiedere verità e giustizia sulla morte di Stefano Cucchi. Un pomeriggio ad alta tensione per le strade di Tor Pignattara nel corteo organizzato dai centri sociali. Bottiglie e altri oggetti lanciati contro i blindati della polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Tutto questo nonostante l'appello della famiglia di Stefano alla compostezza, famiglia che poco fa ha criticato. Avete sentito, giustamente, poi la famiglia di Stefano Cucchi ha criticato e anche in maniera decisa gli atteggiamenti di quelli che sono andati in piazza, non per difendere un diritto, ma per fare casino contro la polizia. Andiamo adesso a un'altra frase incriminata. Ormai si parla di tutto in qualsiasi contesto. Le stesse persone possono essere ospiti a Porta a Porta, a Matrix, alla Vita in Diretta, eccetera, eccetera. Qui l'onorevole Santanchè, durante il pomeriggio di Canale 5, dice queste parole su Maometto. Maometto era pedofilo. Anche qui come si fa ad applicare queste categorie evidentemente contemporanee della pedofilia, della violenza sui bambini, della violenza sui minori, a Maometto? Sentiamo. Per favore, abbiamo parlato di cristianesimo e di uguaglianza. Possiamo dire che per noi Gesù Maometto, che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni era pedofilo. Ma sta zitta con le sue falsità, sta zitta adesso, che parliamo di una cosa, di una cosa seria, che lei vuole parlare di cose di schifezza come lei. Noi vogliamo parlare di cose serie. Basta, ma sta zitta, di che stiamo parlando di cose serie, non le schifezze sue. No, voi, preoccupatevi che Maometto era pedofilo, aveva moglie di 9 anni, uno dei cinque, uno dei cinque profeti maggiori dell'Islam. Daniela basta, dice a un certo punto Barbara D'Urso per calmarla, ma in realtà godeva, secondo me, di questa situazione, dell'ennesimo confronto, dell'ennesima rissa, ormai, diciamo la verità, voluta, cercata assolutamente dagli autori, da chi naturalmente ha in mano la situazione. Se ogni giorno volete leggere qualche considerazione ficcante, provocatoria sull'attualità, io per esempio, tra le altre cose, naturalmente vado su un blog che si chiama piovanorane.it di Alessandro Giulioli, che è giornalista dell'Espresso, che saluto, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Allora, Alessandro, due considerazioni. Ho chiesto agli ascoltatori, per favore, chiamatemi questa sera perché voglio trovare una persona d'accordo con le parole di Giovanardi. Ti leggo solo un paio di messaggi che mi sono arrivati. Se non ne trovate uno, chiamatemi. Mi sa che Giovanardi ha ragione, ho perso amici per droga, erano come cucchi. Dico a questo ascoltatore, cosa c'entra che lei ha perso amici per droga con quello che ha detto Giovanardi o con quello che può essere capitato a cucchi, che non lo sappiamo naturalmente. Un altro ancora che mi dice: a me non fa tristezza, se ti droghi e spacci può capitare che ci lasci le penne. Può capitare, sì, d'accordo Max, non è certamente detto, questo è un altro ascoltatore da Padova, che poi se uno si droga debba finire magari picchiato o non sappiamo cosa sia accaduto, ma forse tutto questo non c'entra con le considerazioni di Giovanardi. Tu che dici? No, c'entra in ragione del fatto che, come dici tu, non ne sappiamo alcunché. Io credo che quello che ha detto Giovanardi sia un po' il frutto della conseguenza della delegittimazione della magistratura in Italia. C'è un'indagine, rispettiamo questa indagine, non sappiamo cosa è successo. C'è stato un comportamento, mi sembra, abbastanza prudente del ministro Alfano. C'è stato invece un ministro e un sottosegretario, cioè La Russa e Giovanardi, che invece sanno tutto, sono convinti di sapere tutto, sono convinti di avere la verità in tasca, pur non avendo la più pallida idea di quello che effettivamente è successo. Quello che io credo che sia è ideologia, cioè semplicemente il conformare la realtà ai propri convincimenti pregressi senza avere la pazienza e l'umiltà di accettare che la realtà può essere un po' più complicata. Questo ragazzo poteva essere tossico, ma sicuramente, se ha maggior ragione, se è tossico e se è anoressico, deve essere tenuto, la sua salute deve essere salvaguardata quando si trova nelle mani dello Stato. Detto questo, io credo che né Giovanardi, né io, né lei, né La Russa abbiamo la più pallida idea di quello che è successo, se non per quello che abbiamo letto sui giornali, e di conseguenza forse tacere, o meglio ancora aspettare di collegare la bocca al cervello prima di parlare, sarebbe un'ottima idea. E questo, se posso dirlo, vale anche per quello che ha detto la signora Santanchè. Sì, assolutamente, anche perché quello che ha detto la signora Santanchè, oggi tu sul tuo blog hai fatto una provocazione, no? A proposito di rapporti tra minori, perché ha evocato la pedofilia, che è una categoria certamente non applicabile a Maometto, diciamola tutta, insomma, questo è evidente, no? Ma guarda, tutte le storie dei libri sacri, se vengono reinterpretate alla luce dei valori di oggi, ci lasciano un po' perplessi. Credo che se noi leggiamo la Bibbia, il Vangelo, la Bhagavad Gita, tutto quello che vogliamo, troviamo una serie di storie che, interpretate alla luce dei valori di oggi, possono essere, non dico esecrabili, ma quantomeno lasciarci un po' perplessi. Quello che ha fatto la Santanchè è evidentemente una provocazione, un desiderio di visibilità ottenuto, va benissimo, lei è una politica che usa la voce come manganello e ottiene la visibilità che desidera in questo modo. Credo che dovremmo tuttavia avere la pazienza di sottoporre tutto quello che c'è intorno a noi alla critica della ragione, essere un po' kantiani e in questo senso non tirare in ballo mitologie o eventi storici e pseudostorici presenti nelle scritture per valutare quello che sono le religioni oggi e quello che è il bisogno, che secondo me è profondissimo, di laicità oggi. Dico profondissimo perché io credo che l'integrazione delle religioni diverse non avvenga arroccandosi nelle nostre tradizioni confessionali, ma aprendosi. Ecco, al di là di questo c'è una considerazione da fare: perché in una trasmissione televisiva, credo volutamente poi si faccia così, si parte da una specie di talk, di dibattito sul crocefisso, per carità, insomma, è uno degli argomenti di questa settimana e giustamente il pomeriggio di Canale 5 se ne occupa. Giustamente, poi non so se giustamente all'interno di un contenitore di quel tipo, comunque lasciamo perdere questo aspetto. Poi si va a finire a Maometto pedofilo, insomma, è una perversione. Si invita la Santanchè, un po' si sa che si va a finire così, un'urlatrice professionale, una persona che utilizza le tribune mediatiche come manganelli e quindi può darsi benissimo. Io non voglio entrare assolutamente nelle dinamiche che hanno portato all'invitare la Santanchè, che può parlare come chiunque altro, però se la inviti sai che va a finire così. No, ma è come mettere di fronte la domenica precedente o due domeniche fa Cecchi Paone e non so quale presidente di un'associazione cristiana che ha delle posizioni contro gli omosessuali. È la stessa logica mettere la Santanchè con il responsabile non so ma quale guarda, moschera. C'era un bellissimo film di Woody Allen in cui c'erano un nazista e un ebreo e un rabbino che si incontravano a tutte le trasmissioni per bisticciare violentemente, e poi alla fine della trasmissione andavano a prendere il caffè insieme. Questo non credo sia successo, però. No, però io delle compagnie di giro, dei talk show televisivi assomigliano sempre di più a quella parodia che ne fece Woody Allen. Si sa che andando in televisione a menarsi, a manganellarsi verbalmente su determinati argomenti, si crea un po' di rumore. Noi siamo qua a parlare della Santanchè e siamo qua a parlare del pomeriggio di Canale 5. Va bene, voglio dire, è un meccanismo mediatico. L'importante, io non voglio vietarlo assolutamente, l'importante è chi le ascolta queste trasmissioni e chi ascolta questi dibattiti sappia che sono creati ad arte per provocare questo tipo di reazioni. Quello che mi preoccupa tanto nella Santanchè quanto nella dichiarazione di Giovanardi, è che sono dichiarazioni, nel caso di Giovanardi persino più gravi perché provengono da un membro del governo, che possono avere delle reazioni sociali non auspicabili in un paese come il nostro, che è in una sorta di guerra civile fredda, in un paese come il nostro che è in una condizione di dialettica estrema e al limite della delegittimazione reciproca. Bisogna stare molto molto attenti prima di parlare. Per questo sul caso Cucchi, io che non sono sicuramente un fan del ministro Alfano, ho apprezzato la sua prudenza, non ho apprezzato in alcun modo l'imprudenza del ministro della difesa e del sottosegretario al presidente del consiglio, che si sono buttati come se fossero pieni di certezze su eventi che invece forse vanno valutati con molta molta molta cautela, secondo me. Bene, grazie, buona serata. 18:53, andiamo a Bologna da Fabio, buonasera. Buonasera Cruciani, sì, allora in pratica lei sta cercando qualcuno d'accordo con le parole del ministro Giovanni. Sì, ma la mia era una provocazione, sì. Insomma un rilancio per cercare di dare un po' di discutere, ecco, non di discutere no, in un guarda, certo modo. Volevo solo dirle due cose, so di cosa sia la tossicodipendenza perché purtroppo ho avuto dei problemi e secondo me il ministro ha detto due o tre cose veramente pericolose, ma proprio pericolose. Primo, ha detto che il ragazzo era sieropositivo quando non c'è nessun documento, anzi nei documenti si dice che lui non era assolutamente sieropositivo e non vedo cosa c'entri col fatto che sia morto in carcere. No, ma io credo che Giovanardi, poi glielo chiederemo più avanti se riusciremo a trovarlo, volesse dire, e l'ha detto secondo me in modo sbagliato, che le cause della morte di Cucchi potrebbero essere ricondotte al suo stato di salute di tossicodipendente, cioè quello che la tossicodipendenza ha provocato nel fisico di Stefano Cucchi. Io credo sia questo, ma detto in un certo modo, con quelle parole, insomma, le interpretazioni poi non è che possono essere molto diverse da quelle che sono state date. No, ma la cosa grave che lui ha detto, che io spero che si sia sbagliato, che ha detto perché i tossicodipendenti quando vanno in comunità si riducono così, la gente va in comunità per curarsi e guarisce, non si riduce male in comunità. Io spero veramente che lui, cioè, abbia detto una cosa a cui, cioè, non ha, che non ha pensato, che comunque su quel momento si sia reso conto poi di aver detto un'emorita. Ma no, ma non ha parlato male delle comunità, non ha parlato male delle comunità o di come ci si riduce in comunità, ha detto un'altra cosa. La ringrazio, Alessandro da Torino. Buonasera Cruciani. Dica. Io sono intervenuto perché venerdì l'ho sentita fare un accostamento tra un politico che si droga, un politico che guarda film porno, un politico che va con trans. Non so se si ricorda la domanda che lei provocatoriamente ha fatto, no? TG3 monotematico sul muro di Berlino. Ci saranno pure altre notizie oggi, cari amici del TG3, ma il titolo è unico. E va bene, questi sono i picconatori del muro. Un ascoltatore mi scrive: io sono d'accordo con Giovanardi, sicuramente la situazione di salute di Cucchi era gravemente compromessa. Sì, può essere, non lo sappiamo, però come fa Giovanardi ad avere la certezza che è morto perché è drogato, anoressico, eccetera eccetera? Sky TG24. Quando l'Europa tornò unita, il mondo ricorda la caduta del muro? Da Clinton a Berlusconi, i grandi a Berlino per celebrare il ventennale. Giustizia a maggioranza in cerca d'accordo, domani il Premier vede fini. Ministro degli Esteri europeo, D'Alema in pole dopo il forfè di Miliband. Bagnasco ai politici, il clima avvelenato mette in pericolo l'Italia. Cucchi, primi indagati, morto perché drogato, dice Giovanardi ed è bufera. Delitto di Via Poma, rinviato a giudizio Raniero Busco, l'ex fidanzato della vittima. Drug test per i politici, Casini dice sì, ma Cicchitto parla di logica perversa. Strage di Fort Hood, l'uomo che ha sparato forse vicino ad un imam estremista. Com'è o Lorenzo, Rossi dall'ultimatum alla Yamaha e pensa alla Ducati. Allora, come avete sentito, per fortuna c'è qualcuno all'interno del centrodestra, oggi due persone, Cicchitto e credo anche Margherita Boniver, che hanno detto no al test antidroga. Cicchitto, per un motivo, l'avete ascoltato prima all'interno dei titoli di Sky TG24, spirale perversa, tutto è iniziato con Berlusconi, dice Cicchitto, cercare di scandagliare la vita privata, adesso si arriva come una spirale all'interno del Parlamento su ogni parlamentare. La Boniver invece ha altre motivazioni che dopo più avanti spiegheremo. Comunque si tratta dei primi due parlamentari del centrodestra che dicono io non faccio il test perché eccetera eccetera. Mi pare qualcosa di minimamente significativo nella marea di ipocrisia che si è sentita nei mesi, nelle settimane passate. Naturalmente la frase del giorno resta quella di Giovanardi, oggi leggendo le agenzie di stampa tutti contro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga. Stefano Cucchi era di carcere perché spacciava, era uno spacciatore abituale, poveretto è morto, la verità verrà fuori come, soprattutto perché era 42 kg, lui la droga ha devastato la sua vita, era sieropositivo, comunque era tossicodipendente, questo era la famiglia l'ha smentito questo. No, no, la famiglia l'ha smentito niente perché è stato in comunità, lui aveva dei grossi sieropositività, problemi. Sulla sieropositività. Poi il fatto che sia, in quei 5 giorni peggiorato, certo che bisogna vedere i medici come l'hanno curato, purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve. Questo Giovanardi che viene attaccato non solo dal centrosinistra, come è naturale, ma anche da diversi esponenti del centrodestra, in primis Alessandra Mussolini, sentitela. Io ho sentito le dichiarazioni di Giovanardi, lui ha detto è uno spacciatore. Spacciatore è cosa ha diversa detto, è un anoressico rispetto uno al consumatore, però credo che anche che al di là di tutto una persona, al di là spacciatore o uno spacciatore, non possa essere ammazzata o malmenata all'interno di un carcere. Questo noi lo dobbiamo dare per scontato, a me non interessa, cioè, altrimenti noi arriviamo a un grado di barbarie. E questo ha detto la Mussolini. C'è oggi uno straordinario Di Pietro da inserire naturalmente all'interno della nostra favolosa, lo dico io perché l'ho fatta io e perché lo penso, rubrica sulle sue apparizioni televisive. Sì. se è disponibile. Non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che mi dà spazio. Come mica, mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione. Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Antonio Di Pietro. Buon pomeriggio. E questo era, questa era la nostra sigla, l'apparizione di Di Pietro, strepitosa, che mi hanno segnalato molti ascoltatori. Me la sono persa in diretta, ma l'ho rivista oggi su internet. Rai 2, ci vediamo domenica, conduce Alda Deusanio, sentite. Benvenuto Tonino, Antonio Pertucci. Buongiorno. Scusa, io so che tu ami molto gli animali, quanti animali c'hai tu? Ce n'ho parecchie. Quanti, che animali c'hai? Dunque, galline, pulcini, che mo non sono più pulcini, sono diventati galletti, conigli, tacchini, perché a Natale è Natale, capretti, l'ho avuto fino a poco fa e se non ce l'ho più, poi c'è il cane, eccetera. Il cane così. Anche che ci colore, fai ci sono due... pure con... che ci fai con questi animali? Faccio quello che fa qualsiasi persona contadina, li rispetta, li alleva e alla fine se li mangia. Se li mangia. Beh, insomma, avete sentito Di Pietro che parla degli animali, dei suoi campi ieri, ci vediamo domenica con Alda Deusanio. E poi fa il cuoco, cioè dire, parla di ricette e cose di questo tipo. Allora, oggi vedo che l'argomento è la genuinità. E io sono andato alla ricerca di un prodotto un che po'... già vedo. Dov'è? L'hai riconosciuto? L'ha già riconosciuta, non certo che, l'ha che è? La ventricina. La ventricina. La ventricina. Ti piace la ventricina? Volevo fare tutto un preambolo, una sorpresa per cercare di capire invece l'onorevole... Spieghiamole a chi ci ascolta cos'è la ventricina. Assaggiamola. È la ventricina di maiale. Domenica scorsa, oggi niente sorprese, domenica scorsa a Curno ho fatto, perché mio figlio piace moltissimo, e allora... Quale figlio che c'hai, tre Toto. Figli tu? Toto, Antonio. L'ultimo, che c'è quanti Antonio, anni? Al quale piace molto il ragù di ventricina. Di ventricina, sì. Ho fatto il sagnatel con la ventricina. Ne ho fatto un bel po'. Per cui se stasera vieni a casa, subito. Abbiamo, ne ho messo un po' al freezer, perché quando lo faccio, ne faccio un po' di più. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che non mi dà spazio. Mai? Come non mica, mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione. Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Va bene, alle 19.26, 800 24 00 24. Questo era Di Pietro, presente anche a Ci Vediamo Domenica, Alda Deusanio, ma c'è anche uno speciale Radio Londra. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra. Beh, c'è un pubblico ministero antimafia, uno dunque che ancora fa le indagini e si concentra particolarmente sui rapporti tra i politici e la mafia, politici anche degli anni, dell'inizio degli anni 90, sulla nascita di certi movimenti politici e non dico altro, che era ospite di un convegno dell'Italia dei Valori, in particolare di Luigi De Magistris, e ha parlato di vera e propria emergenza democratica in Italia. Il PM si chiama Antonio Ingroia, sentite. Io credo che siamo in una situazione di emergenza, un'emergenza vera, effettiva, non le emergenze fittizie, le emergenze create ad hoc per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica, non l'emergenza immigrazione, non l'emergenza magistratura, non l'emergenza intercettazione. Noi in Italia abbiamo un'emergenza democratica. L'emergenza democratica naturalmente per Ingroia è il governo, quello che sta facendo il governo non lo dice esplicitamente, ma naturalmente è così, il governo che starebbe preparando la soluzione finale utilizzando un'espressione hitleriana. Un attacco sistematico che si avvia verso una sorta di, passate il termine, riconosco un po' enfatico, soluzione finale. Ma questa sensazione mi dà quel che sta accadendo negli ultimi mesi, sui due punti che poi sono cruciali, rimasti in qualche modo a presidio, che sono costituiti dai unici presidi di controllo rimasti, diciamo così, in piedi: la magistratura e la libera informazione. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Beh, oggi ho sentito sul canale 5 Filippo Facci che diceva: Ingroia, fa bene a schierarsi, fa bene a dire che bisogna schierarsi, però non dovrebbe fare più il pubblico ministero, non dovrebbe più fare il magistrato, di mettersi a fare politica. Certamente questa è una buona indicazione. Ne aggiungo un'altra. Insomma, quale tipo di sensibilità, quale tipo di equilibrio può avere un magistrato che fa indagini delicate sulla politica e sulla mafia con un approccio di questo tipo? Per favore, abbiamo parlato di cristianesimo e di uguaglianza. Possiamo dire che per noi Gesù Maometto, che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni era pedofilo. Ma sta zitta con le sue falsità, sta zitta adesso, che parliamo di una cosa, è una cosa seria, che lei vuole parlare di cose di schifezza come lei. Noi vogliamo parlare di cose serie. Basta, ma sta zitta, di che stiamo parlando di cose serie, non le schifezze sue. No, voi preoccupatevi che Maometto era pedofilo, aveva una moglie di 9 anni. Uno dei cinque, uno dei cinque profeti maggiori dell'Islam. Maometto per noi era Daniela, basta. Vabbè, a parte che la Corte Europea non può occuparsi dell'Arabia Saudita come vorrebbe Daniela Santanchè, perché è evidentemente fuori dalla sua giurisdizione, primo. Secondo, ci sono diversi ascoltatori che mi hanno mandato delle mail per raccontarmi che sì, Maometto, 6 anni, 9 anni, mi hanno raccontato diverse schifezze che a loro parere non conosco la storia di Maometto, avrebbe fatto quando, prima di diventare profeta o dopo, non lo so, ma tutto questo non c'entra assolutamente nulla con la discussione sul crocefisso, non c'entra assolutamente nulla con quello che voleva dire Daniela Santanchè nella discussione di ieri. Dove siamo? Siamo agli ascoltatori, naturalmente, all'800 24 0024. Salvatore da Brindisi, buonasera. Ciao, buonasera. Dica. Niente, io mi dispiace per te, ma non penso che troverai persone che siano d'accordo con questa cosa. Troverai qualcuno che sia contento che un uomo di governo dica queste cose. Contento perché? Perché prefigurano quello che dice Luttazzi, oppure, andando indietro, quello che diceva Indro Montanelli. Cioè, in che senso? Cioè, mi scusi, cosa c'entra Giovanardi con Montanelli, con Luttazzi? Mi faccia capire, Salvatore. Ecco, le spiego. Ecco, mi spieghi, perché è difficile. Un uomo di governo, oramai siamo abituati alle cazzate, scusa il termine, ma sì, oramai basta. Ma cioè, ci diamo del tu, io e lei, abbiamo deciso di darci del tu? Come vuole lei. Meglio in lei, grazie. Lei, allora, io dico, questi uomini di governo che dicono queste cose, prima di tutto dovrebbero scusarsi con la famiglia di questo ragazzo. Prima di tutto avrebbero dovuto tutelarlo perché è un soggetto debole, invece di picchiarlo e fratturargli le costole. Lei dà per certo che gli sono state, che è stato picchiato, eccetera. L'hanno comunicato. Ma non hanno comunicato niente, abbia pazienza, Salvatore. È stato picchiato. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene questo, Salvatore? Non faccia l'errore contrario di avere certezze. Giovanardi parla senza avere nessun tipo di certezza. Fra poco gli chiederemo conto delle sue parole di questa mattina a Radio 24. Ma lei più o meno fa lo stesso ragionamento, dice: sicuramente è stato picchiato, è stato massacrato, gli hanno fratturato le ossa, eccetera. Chi lo dice? Chi lo sostiene? È in corso un'indagine, non sappiamo quello che è successo. Non si può picchiare. Ma questo non siamo d'accordo, anch'io sono d'accordo che non si può picchiare. Allora? Io sono contento per Giovanardi che dice queste cose, perché così l'opinione pubblica si rende conto chi sono i nostri governanti. Chi è la gente che ci governa? Come Salvatore, però stiamo parlando di Giovanardi, non in generale della posizione di un governo, della posizione del Parlamento, di quello che sono i politici. Parli di Giovanardi, non in generale. Vabbè, alla fine io volevo dire questo. Che voleva dire? Non l'ho capito. La filosofia berlusconiana, che di questi uomini di governo che vabbè, loro... adesso Berlusconi è responsabile di Giovanardi. Vabbè, no, anche, ma è una filosofia loro. E, il governo e è qual quello. È la filosofia? Di dire che la uno... La filosofia è quella che... È quella che poche parole, questi uomini, sì. Prima di tutto, come Alfano lo dice sempre, io sono orfano di governo. Io, perché non ho votato questo governo... Mi sento un orfano, vabbè. Come tanti cittadini. Ho capito, Salvatore, senta, non vedo sbocco in questo ragionamento. La ringrazio. Leonida da Milano, buonasera. Luciano, dica. Grazie per avermi chiamato, complimenti alla trasmissione, veloce. Sì, grazie a lei di aver chiamato, siete sempre voi che chiamate, dica. Sì. Io ho assistito alla trasmissione questa mattina e vorrei precisare due cose. Primo, Giovanardi ha risposto all'altro politico che era presente, che non è possesso di pochi grammi di fumo o di hash. E Cucchi è uno spacciatore, era uno spacciatore. Ma anche qui era uno spacciatore, mi scusi Leonida, io non so come si definisce esattamente uno spacciatore. Aveva in mano diverse dosi di droga, ma dire è uno spacciatore, non è che uno ha scritto spacciatore qui e si tiene questo timbro a vita. Nel momento in cui è stato pizzicato dai carabinieri in un parco, aveva diverse dosi di droga in mano, dunque spacciava, probabilmente, insomma, spacciava. Allora? Io non possengo neanche un grammo di... Sì, ma nemmeno io, Leonida, sì, però non... Ok. Allora? Secondo punto, favore. Allora, Giovanardi, secondo me, intendeva dire che era già morto. No. Che è stato ucciso in carcere. Ma capito, come fa a saperlo? Mi scusi, come fa a saperlo Giovanardi? Che era già morto. Per me un tossico dipendente, o se ero positivo o non se ero positivo, non lo sappiamo. Comunque un tossico dipendente, si dice tossico, per me è uno zombie. Ma ho capito, ma che significa questo è uno zombie? Speriamo tutti che uno possa da zombie, a parte che la definizione di zombie bisognerebbe capire cosa significa, possa invece guarire, possa riprendersi o no, oppure speriamo che muoia. Per lei un drogato è già morto? No, è già morto perché non partecipa alla vita pubblica. Ma ho capito, che significa già morto? Leonida, abbia pazienza, ci vuole un minimo di umanità, anche in posizioni ciniche, per carità, non si deve essere per forza buonisti, però come fa a dire che un drogato è già morto? Mi scusi? Per me sì, è un tossico. Va bene, è un tossico, è morto. Sì, secondo me sono d'accordo con lui, è un tossico e... A parte che morto. Giovanardi non ha detto questo, non ha detto che un tossico è morto, non voleva dire questo, questa è la sua interpretazione, l'interpretazione sbagliata di una cosa che ha detto Giovanardi, secondo me sbagliata, per cui siamo veramente al massimo qui. No, ha detto che è già morto. Sì, è ma non ha detto... È arrivato morto. No. Per lui, tutti i ragazzi che si vedono in comunità sono ridotti proprio malissimo, che sono già morti, ma non è... Ma veramente non ha detto questo Giovanardi, mi scusi, non ha detto questo, non ha parlato di comunità, vabbè, insomma, se vuole glielo faccio riascoltare, ma non è il caso. La ringrazio. Luca da Milano, buonasera. Però questa è la perversione che può nascere dalle parole di Giovanardi, è un'interpretazione assolutamente sbagliata. Luca, prego. Pronto, vi ringrazio di avermi richiamato, io volevo dire semplicemente una cosa. Al di là di quali siano i motivi della morte di Stefano Cucchi, che verranno accertati dalla magistratura, il punto è che un ragazzo è morto in una carcere italiana e le carceri italiane sono posti dove la gente deve essere sottoposta alla dolorosa necessità di privarli della libertà. Sì, scusi Luca, adesso prima di partire in quarta con le carceri italiane che sarebbero un posto tremendo dove si crepa, dove si muore, dove la gente viene torturata, noi non sappiamo nemmeno se è morto in carcere, se è stato picchiato in carcere oppure no, abbia pazienza. Scusi. Ne fosse morto pure anche soltanto uno che era stato carcerato. Vabbè, d'accordo. Tanto interrogarsi sul fatto che un ragazzo è morto in una carcere italiana. Sì. L'essere carcerato per il Cucchi avrebbe potuto essere l'inizio magari di un cammino di ripresa della sua vita, di pentimento, di miglioramento. Invece lui è entrato in carcere e c'è morto. Dunque lei contesta il fatto che una persona che viene trovata con un certo numero di dosi in un parco debba essere, diciamo, arrestata e dunque passare attraverso il carcere, eccetera? No, non ha capito quello che vuol dire. Infatti è complicato capire, però ci provo. La persona che viene trovata mentre compie un reato deve essere portata in carcere. sì, ma in nessun modo la sua carcerazione deve risultare nella morte. Beh, ho capito, persona. Luca, ma questo qua è scontato quello che mi sta dicendo, ma nessuno si augura che, o nessuno vuole che si arrivi alla morte in carcere. Si sta cercando di appurare questo, si sta cercando di appurare con grande difficoltà, naturalmente con le testimonianze che possono essere contraddittorie, non so se avete letto i giornali oggi, che insomma... Come sia stato possibile arrivare a questo, alle condizioni che sono cambiate, alle condizioni fisiche di Cucchi che sono cambiate, a quei lividi, tutto questo lo sta facendo un'inchiesta. Uno ci può credere, non ci può credere in questa inchiesta, ma così stanno le cose, non abbiamo ancora certezze, nessuno le ha, ha capito o no? Voglio dire che ho certezze, ho soltanto detto che il signor Cucchi, lo sì, Stefano Cucchi, prima pesava 42 kg, ma stava sulle sue gambe. Dopo essere stato arrestato, pesava 42 kg, ma è stato sdraiato. Va bene. Allora, che non vi sia nessun rapporto di causa-effetto tra questa cosa, lo appurerà la magistratura. Però comunque resta il fatto che un paziente, che una persona con delle tumefazioni sul volto è morta a seguito della carcerazione in una carcere italiana. Va bene Luca, la ringrazio, tanto non c'è possibilità, cioè, il mondo si divide in due, si è diviso in due, tra quelli che pensano che Cucchi sia stato bastonato duramente da qualcuno, che siano agenti penitenziari, dico, faccio ipotesi, carabinieri, e quelli che pensano che sia morto per cause naturali perché era drogato. Questa è la situazione. 800 24 00 24, ma è qui a spiegarci le sue parole di questa mattina che hanno scatenato un putiferio politico, Carlo Giovanardi, che saluto, buonasera. Sì, buonasera. Allora Giovanardi, lo so che a voi non piace quando uno prende una frase da un contesto di una discussione e poi giudica su quella frase, però insomma le parole in alcuni casi sono parole. Dunque risentiamo il Giovanardi di questa mattina, ce l'abbiamo? Sentiamolo, ecco qua. Stefano Cucchi era di casa perché spacciava, era uno spacciatore abituale, poveretto è morto, la verità verrà fuori come, soprattutto perché era 42 kg, lui la droga ha devastato la sua vita, era sieropositivo, comunque era tossicodipendente, questo era neuretico. La famiglia l'ha smentito questo, eh? No, la famiglia non l'ha smentito niente perché è stato in comunità, lui aveva dei grossi sieropositività, problemi. Sulla sieropositività. Poi il fatto che sia in quei 5 giorni è peggiorato, certo che bisogna vedere i medici come l'hanno curato, purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve. Qualcuno chiede, credo anche qualche membro della famiglia Cucchi, che lei chieda scusa per quello che ha detto, si sente di chiedere scusa oppure no? Intanto ho già parlato con la sorella e non quella cosa che è stata estrapolata, ripetuto quello che ho detto in trasmissione e nell'agenzia nei giorni scorsi, che la famiglia ha perfettamente ragione. Perché è stato messo di dire che è entrato 42 kg, ma è uscito da morto con quelle terribili foto da Buchenwald, che era 34-35 kg, perché la domanda che io faccio è perché in quei 4 giorni, essendo proprio a causa della droga, fragile, anoressico, epilettico, come ha detto lui, con problemi di tossicodipendenza, perché non è stato messo a contatto con la famiglia o con uno psichiatra, non è stato intubato, perché... C'è un grande dibattito in corso, come noto, in Parlamento. Io sono uno di quelli che dice che in questa situazione il malato va curato anche per forza. C'è chi dice in Parlamento che invece sacra la volontà del malato e quindi se non vuole nutrirsi bisogna lasciarlo morire di fame. Cosa le ha detto la famiglia? Allora io ho posto questo problema. Uno come questo ragazzo di 42 anni con quei problemi era uno della sua fragilità che doveva essere aiutato o doveva essere preso per oro colato quello che i medici dicono che abbia detto. Allora la famiglia ha tutte le ragioni, però nella sua situazione in cui si è trovato sicuramente, ahimè per lui e ahimè per la sua fragilità e per le sue condizioni, la droga nella sua vita ha avuto, come in tantissime altre vicende che io tocco con mano nelle comunità, un ruolo fondamentale e negativo. Ma questo nessuno lo nega, queste condizioni. Giovanni, questo scusi un attimo, sapere che cosa c'è di polemico o di sbagliato in quello che sto dicendo. Beh, mi scusi Giovanardi, però lei ha spiegato adesso naturalmente con parole anche diverse, in parte l'aveva già detto sia questa mattina che in un'altra occasione, però lei cosa ha detto? Ha detto che sicuramente verrà fuori la prima causa della morte di Cucchi è stata la droga. Ora come fa a essere così sicuro? No, non è quella droga. Beh, lei ha detto la droga, il fatto che lui è drogato, guardi, eccetera. Le mie agenzie di 4 4 giorni fa, di 5 giorni fa. No, ma l'agenzia di stamattina, lei. No, no, l'agenzia di stamattina non c'è nessuno, perché è un dibattito, quindi c'è un il mio articolo sul giornale, ci sono le emergenzie in cui sono solidale con la famiglia, perché sicuramente, io non lo so, prima, c'è un'indagine in corso, se prima della convalida, quando ha parlato col papà, col giudice, con l'avvocato difensore, prima fosse successo qualcosa, se qualcuno lo abbia aggredito, se qualcuno si sia approfittato della sua fragilità. Questo lo devono stabilire giustamente i magistrati. Io so che quando è entrato in infermeria, c'è entrato con le sue gambe, aveva dei problemi, ma non era certamente, come 5 giorni dopo, quel disastro che abbiamo visto nelle foto, che è stato determinato da che cosa? Che non l'hanno curato. Allora, beh, questa è sì, però Giovanardi, il lancio dell'agenzia di ANSA di oggi non è che se lo sono inventato, hanno sentito l'audio certo. Questa mattina, Stefano Cucchi è morto perché era drogato e anoressico. Questa ma, era... questo, scusi? Ma l'ha detto lei, mi scusi, ma l'ho che fatto. Ma dice, nella mia agenzia di oggi sto dicendo esattamente quello che dico. Ma che dice? Scusi, ma quindi, non so mistificare, c'è un altro. No. Allora, Cucchi era in carcere perché era uno spacciatore. Le cose che sto dicendo adesso. Scusi un attimo. Esattamente le cose che sto dicendo. No, allora io le leggo l'agenzia ANSA. Cucchi era in carcere. Allora, Cucchi era in carcere perché era uno spacciatore abituale. Poveretto, è morto. Ma non è l'ANSA mia quella lì, scusi. No, l'ANSA sua. Ho capito, ma l'ANSA non è che fa solo il mestiere di raccogliere le informazioni dei politici. Ogni tanto sente. Mi mettono in linea tutto quello che ho detto nella trasmissione vostra di stamattina, senza estrapolare delle parti, che è una cosa scorretta e infame di fare informazione. Ma no, perché mettete intero quello che ho detto, oppure. Ma no, noi l'abbiamo messo intero, l'abbiamo messo no, anche non intero. Non l'avete messo intero, perché l'avete tolto da un contesto, dove una settimana fa, 10 giorni fa, oggi pomeriggio, solidarizzando con la famiglia e dicendo che la famiglia ha ragione, perfettamente ragione. Ma nessuno nega che lei abbia solidarizzato con la famiglia. Dov'è il problema? Il problema è che lei ha detto che la causa ha fatto capire in maniera abbastanza evidente. Questo, ho detto che perché in quelle condizioni i medici hanno dato retta a una persona che con la sua fragilità non era in grado, per tutti i problemi che aveva, di esprimere liberamente la sua volontà, e questo è stato determinato dal suo percorso all'interno della droga, che lo ha creato, l'ha fatto essere una persona problematica, e la sua problematicità ha comportato in questi 5 giorni, cosa gravissima, i medici non l'hanno curato, e invece andava curato. D'accordo, allora d'accordo, perché allora... Allora la famiglia ha interpretato solamente la... Mi sono parlato con la sorella. Che cosa le hanno detto? Perché ho sentito, sono parole che si commentano da sole. Giovanardi... Lei parli con la... perché non interpreto le parole degli altri. Devo chiamare la sorella del povero Stefano, può farsi raccontare il contenuto della conversazione che abbiamo avuto, le cose che le ho spiegato riconfermando che per l'ennesima volta la solidarietà per quello che è accaduto. Può telefonare tranquillamente. Però mi scusi, io ho sentito la trasmissione, quello che è venuto fuori, quello che veniva fuori è il fatto che lei puntava di più sullo stato, diciamo, di drogato di Stefano Cucchi piuttosto che sulle responsabilità, eventuali responsabilità umane. Scusi, è così o no? Io puntavo sul fatto che una persona che in quelle condizioni purtroppo non è in grado di gestirsi. Persone in quelle condizioni ne muoiono centinaia ogni anno in Italia, altre centinaia muoiono per le patologie. In questo caso, quando lui è stato ricoverato, non era affatto in pericolo di morte, avrebbe dovuto essere curato. Chi l'ha curato evidentemente non ha tenuto conto della fragilità di uno che è in quella situazione, e dico probabilmente, perché anche questo l'indagine lo appurerà, ha tenuto conto delle sue indicazioni. Perché uno non perde 5 kg se lo nutrono, se lo intubano e se lo trattano. Perché non è stata una patologia lì, basta vedere le foto, sostanzialmente appare come morto di inedia. Però no, ma adesso ho capito, però quando lei tra l'altro ha detto un'altra cosa, si era positivo, mentre lei sa benissimo che la famiglia nega questa cosa, su questo si è spiegato con la famiglia, su questo cancelli dal verbale, può essermi scappato, perché oltretutto non si può sapere, come lei sa, perché è coperto comunque, anche se lo fosse, dalla privacy, certo, appunto, quindi cancelliamo questo discorso. Dunque su questo si è sbagliato. Tossicodipendente e con crisi di pensione l'ha dichiarato lui. Sì, no, ma su... lo sa anche la famiglia, che aveva dei problemi. Su questo si è sbagliato. Avendo tutti quei problemi determinati dalla droga, che purtroppo con cui conviveva da anni, malgrado i tentativi di recupero generosi nelle comunità che erano falliti, perché non è stato curato? D'accordo. Allora, sulla sieropositività, lei mi può dire, mi sono sbagliato? No, non lo posso dire. non lo posso dire perché lo no. fosse o non lo fosse, non lo posso dire, non lo può dire nessuno, quindi... Appunto, lei si è sbagliato a pronunciare quella parola. Ok, va bene. Una seconda cosa, dire che la droga è la prima causa, è colpevole sicuramente della situazione di Stefano Cucchi, non significa un po' sminuire quelle che possono essere responsabilità umane nella morte di Stefano Cucchi? Io finisco, infatti, le sto appena dicendo che la famiglia ha perfettamente ragione nel dire che i medici devono rispondere del loro comportamento, però le dico anche che i medici si inseriscono all'interno di un dibattito su cui il Parlamento è impegnato da mesi, dove chi la pensa diversamente da me dice che se il paziente non vuole essere curato e non vuole essere nutrito, bisogna lasciarlo morire. Io non sono di questa idea. Io sono dell'idea che invece quando ci sono situazioni come quelle, prima di lasciare morire uno, bisogna accertarsi se la sua volontà sia una volontà vera o se sia viziata da determinate patologie. E un tossicodipendente o uno che è in quella situazione, per definizione, è una persona la cui capacità di intendere di volere è ridotta e quindi va aiutata. Senta, le faccio riascoltare le sue parole. Lei mi dirà è sbagliato, bisogna inserire in un contesto. Però le parole che abbiamo sentito tutti e su cui si è basata la prima agenzia ANSA, che naturalmente è stata dettata da noi, sulle sue parole, sono queste. Poi uno non è che può far sentire un dibattito di mezz'ora all'ANSA, naturalmente. Sentiamo le parole e poi lei, concludiamo con lei. Stefano Cucchi era di casa perché spacciava, era uno spacciatore abituale, poveretto è morto, la verità verrà fuori come, soprattutto perché era 42 kg, lui, l'air drug ha devastato la sua vita, era sieropositivo, comunque era tossicodipendente, questo era neuretico. La famiglia l'ha smentito questo, eh? No, la famiglia non ha smentito niente perché è stato in comunità, lui aveva dei grossi sieropositività, problemi, sulla sieropositività. Poi il fatto che sia, in quei 5 giorni è peggiorato, certo che bisogna vedere i medici come l'hanno curato, purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve. Allora Giovanardi, però lei è morto soprattutto perché 42 kg, l'ha detto, adesso sarà una frase in un contesto di mezz'ora, però quella... L'onestà intellettuale è che quando uno per 10 giorni continua a dire dappertutto e scrive dappertutto, quello che le ho appena detto, sì, che ho ripetuto anche nelle trasmissioni al di là del contesto, sì. Cioè il ragionamento che le ho fatto e che oggi ho ripetuto, o lei con onestà intellettuale prende atto di quello che è il mio pensiero? No, ma io l'ho fatto ascoltare, lei ha parlato, non c'è dubbio, però quando uno dice è morto soprattutto perché 42 kg, non è... Ma l'ho appena detto, è morto perché è entrato a 42 kg e non lo hanno, era già in situazioni precarie e non lo hanno curato, quando è morto era 35 kg. Non lo hanno curato e non l'hanno curato perché hanno preso per buona la volontà di una persona che era già dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale una persona malata, e se era malata perché aveva tutto un percorso all'interno della droga. Tutto questo l'ha spiegato cose di una semplicità elementare. Tutto questo l'ha spiegato la famiglia oggi nel colloquio che ha avuto? Certo, l'ha spiegato la sorella. Loro hanno capito questa sua posizione? Ma oppure questo, guardi, lo chiedo a lei. Io per principio non attribuisco mai ad altre persone, io attribuisco il mio pensiero, non mi permetto. Va bene, d'accordo, chiederemo. Attribuire ad altri è meno che mai il contenuto di una conversazione. TG5. 20 anni fa cadeva il muro di Berlino, folla alla porta di Brandeburgo con i grandi del mondo. Per la Merkel è una festa per tutta l'Europa, in diretta lo spettacolare domino che simula l'abbattimento. Napolitano è un evento pari alla fine di una guerra mondiale, il Papa fondamentale nella storia della Germania. Berlusconi a Berlino, una svolta epocale, metà Europa liberata dal totalitarismo. Celebrazioni in molte città italiane. Bagnasco ai vescovi, in Italia pericoloso clima d'odio, va svelenito, sentenza sul crocifisso è surreale e sorprendente, bene il ricorso del governo. Altre 4 vittime dell'influenza A, mentre continua l'assalto ai pronto soccorso, il viceministro Fazio rassicura, virus più leggero dell'influenza stagionale. Svolta dopo 19 anni nel delitto di Via Poma, rinviato a giudizio per omicidio volontario, Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, processo a febbraio. Già tutto esaurito per l'incontro di rugby sabato a San Siro tra l'Italia e gli All Blacks, leggendaria la loro haka, la danza propiziatoria di origine maori. Stasera il Grande Fratello, la rivelazione di Gabriela. TG1, sentiamo i titoli. Festa a Berlino, 20 anni dopo il muro, la Merkel grazie Gorbaciov, ma la riunificazione della Germania è ancora incompiuta. Riforma della giustizia, domani l'incontro tra Berlusconi e Fini, intervista del TG1 al presidente della Camera. Basta con il clima di odio in politica, Bagnasco apre i lavori della CEI e dice serve un disarmo nella vita pubblica. Via Pomo, dopo 19 anni a giudizio, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, accusato di omicidio illegale, lo hanno incastrato. La morte di Stefano Cucchi, prime iscrizioni nel registro degli indagati, inchiesta sui referti medici, polemiche politiche. Influenza, italiani dubbiosi sulla vaccinazione, nessun rischio di cefazio, un esperto risponde ai vostri quesiti. Stasera su Rai 1, un medico in famiglia. Grazie. Bene, naturalmente andare controcorrente è sempre corretto, non bisogna mai seguire l'onda, così per principio, per forma mentis, e dunque fa bene in un certo senso Giovanardi a dire non bisogna manipolare, però bisognerebbe prendersela in questo caso con l'intera informazione italiana. Leggo oggi, leggo adesso tra i titoli per esempio di Sky TG24, Giovanardi, Cucchi morto perché drogato e anoressico. Dunque anche l'interpretazione, forse presa dall'ANSA dopo un comunicato nostro di Sky TG24, è in questo senso. Bisogna anche farsi una ragione, diceva prima un ascoltatore, sì d'accordo, le frasi vanno messe all'interno di un contesto, ma appunto perché comunque le frasi che vengono dette rimangono scolpite, rimangono lì e vengono afferrate anche parzialmente, bisognerebbe stare attenti anche a quello che si dice e a come si dicono certe cose. Roberto da Treviso, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Io volevo dire, ho chiamato proprio per appoggiare quanto è stato in un certo senso già detto da Giovanardi. Io ho avuto modo nella mia vita di lavorare, di collaborare nell'aiutare persone con problemi di tossicodipendenza, di droga, eccetera. E la cosa che mi sento di dire che non è facile, sono persone che sono borderline. Adesso nel caso di Cucchi, come lei ha già detto più volte, certamente la magistratura indagherà, cercheranno di mettere un po' di luce su questa vicenda, però sono anche convinto che questo ragazzo, da un lato dico poverino, era in una situazione molto molto difficile, estrema, quindi le cause di morte sono anche, a volte sono, diciamo, così un po' offuscate da diverse vicissitudini di causa proprio medico-fisica, di causa così esterna, basta che ci sia stata una spinta di troppo, non so se mi capisce, no? No, ma ho capito Roberto, è evidente che la situazione fisica di Cucchi può avere contribuito, non lo so, stiamo parlando così senza sapere nulla di come sono andate le cose. Peraltro i medici legali, oggi proprio pochi minuti fa è stata data la notizia, la tipologia delle lesioni riscontrate su Stefano Cucchi sono compatibili sia con un evento accidentale come potrebbe essere una caduta, sia con le percosse, quanto emerge dai primi esami degli esami clinici e della documentazione autoptica compiuti dai medici legali incaricati della procura di fare luce sulla morte del tossicodipendente. Dunque per il momento è compatibile sia la caduta che le percosse. Roberto, la ringrazio. Leo da Milano. Dottor Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo fare un doppio intervento, ma collegato, sul test antidroga. Secondo me i nostri politici non perdono occasione di darci così degli stupidi, perché un test antidroga volontario, non so se posso, per fare un paragone, come se, non so, la Lega Calcio o la FIGC chiedesse ogni domenica volontariamente di fare l'antidoping ai giocatori, mi sembra alquanto così triste. In qualche modo non sono d'accordo, perché cosa facciamo se la caccia in pizzi, non so, le si espelle due al Parlamento? Leo, con me sfonda una porta aperta, lo sa, siamo purtroppo una minoranza, perché la maggior parte delle persone che ci hanno chiamato, la maggior parte dei politici, almeno di centrodestra, tra quelli che hanno proposto questa cosa, invece sono favorevoli a un controllo. Poi naturalmente non lo vogliono obbligatorio, lo vogliono volontario, vedrà che finirà tutto in una bolla di sapone tra qualche giorno. Oggi per fortuna c'è qualche voce che si è distinta nel centrodestra, parlo di Fabrizio Cicchitto, parlo di Margherita Boniver, che dicono no, noi questo test per diverse ragioni, noi questo test non lo facciamo. Va bene, Luigi da Lecce, anzi Ruggero da Firenze prima, buonasera Ruggero. Sì, buonasera. Dica. Senta, io volevo fare una domanda, ho sentito prima la sua Radio Londra e l'intervento del dottor Ingroia e volevo capire il motivo dell'affermazione. Il fatto per chi lui dovrebbe, diciamo, quantomeno dimettersi e darsi alla politica, perché volevo capire innanzitutto questo: se un magistrato ha un'opinione da esprimere, diciamo, ecco, è necessario, anche se l'opinione in questo caso riguarda un giudizio magari indiretto sul governo, ma deve per forza dimettersi oppure può esprimerla comunque, se non parla di indagini in corso, se non parla di un qualche cosa che magari sulla quale lui sta indagando direttamente. Ruggero, guardi, naturalmente non c'è nessun obbligo di legge, nessuna disposizione legislativa che obbliga Ingroia o qualsiasi altro magistrato che parla di politica a dimettersi, figuriamoci, ci mancherebbe altro. Sembra abbastanza chiaro che quando uno come Ingroia, che è un magistrato con funzioni molto delicate, fa un comizio, tra virgolette, un intervento, chiamiamolo così, di quel tipo a un congresso, a un appuntamento, a un convegno organizzato dall'Italia dei Valori, mi sembra chiaro che uno si deve aspettare la fuoriuscita dalla magistratura e invece l'entrata nella politica. Cioè, mi sembrerebbe abbastanza naturale, quando uno parla di soluzione finale, con la modifica di leggi che riguardano la giustizia e l'informazione, di emergenza democratica, rivolgendosi evidentemente al governo, lei che cosa si aspetta? No, ma quello che mi viene in mente un intervento del dottor Borsellino di diversi anni fa, che parlava della mafia che cercava nuove alleanze con la politica, quindi magari, ecco, anche lì ci sarebbe potuto essere, dato che si sottointendeva tutta una serie di personaggi. Ma non credo, guardi Ruggero, non lo so, bisognerebbe prendere quelle frasi e contestualizzarle in quel periodo. In ogni caso, le frasi che mi ha citato lei, l'ispezione di frasi che mi ha citato lei, mi sembrano generalmente rivolte al mondo politico. Bisognerebbe evitare o bisognerebbe indagare sui rapporti tra mafia e politica. In questo caso c'è un riferimento diretto nella parola che abbiamo ascoltato al governo, su questo non c'è il minimo dubbio, o no? Certo, assolutamente. L'ultima cosa poi le volevo dire era il fatto che comunque, diciamo, visto che ho già provato tempo fa a contattarla su questo, che parlare di emergenza per quanto riguarda la libertà di stampa è sicuramente fuori luogo, secondo me, perché la libertà di stampa in Italia c'è, manca casomai la libertà di emittenza, nel senso, allora? Nel momento in cui si cerca magari di fare far passare certi tipi di messaggi in televisione, la cosa cambia completamente. Secondo me passa di tutto in televisione, Ruggero. Ma ripeto, anche in un contesto di un certo tipo, anche inserendo le parole in un discorso più ampio, quelle parole restano, non è che possono. Quando si dice è morto soprattutto perché, è morto perché l'ha ucciso, quelle parole sono. Poi bisogna sempre vedere la risposta, era una risposta a un altro ragionamento, ma un politico deve essere attento anche a questo. Allora Ruggero, che mi voleva dire? Sì, a prescindere sono perfettamente d'accordo con quest'ultima affermazione, le stavo dicendo che è giusto ed è vero che passi tutto quanto in televisione, è anche vero che io non posso non notare dei sistematici tentativi di limitare questa possibilità, e non mi dimentico del più grande giornalista italiano che è stato sostituito dai Ridolini, cioè da Lopez e da Solenghi, perché il fatto fu sospesa come trasmissione. Quindi, vabbè, vogliamo ritornare ancora alla vicenda Montanelli? Ma non è una cosa di 20 anni fa, ho capito, ma è successo diversi anni fa. Di che vogliamo parlare adesso? Ancora della vicenda di Biagi, scusi, non di Montana, di Biagi. Non è questione del fatto che sia successo 30 anni fa, è questione del fatto che comunque ci sono dei tentativi e ci sono alcune persone che saranno magari bipartisan, che mal tollerano che si parli contro quelle che sono le proprie persone, le proprie idee. Sì, diciamo Ruggero, che tutto il potere, in generale il potere, gli uomini di potere sono abbastanza resti alle domande pungenti, alle domande ficcanti, al giornalismo, come dire, libero. In generale il potere è abbastanza, da questo punto di vista, è abbastanza intollerante, no? Forse però in Italia c'è un problema, che i principali, diciamo, poteri forti economici controllano anche i principali organi di informazione. Sempre, non solamente naturalmente riferita a Berlusconi, ma sempre da entrambe le parti. Che questa è un'anomalia che probabilmente fa sì che questo problema che sottolineava lei in Italia si senta un pochino di più. Ecco, tutto qua. Ruggero, la ringrazio, concordo su questo. Michele da Verona, buonasera. Buonasera Tiziani, ho avuto modo di ascoltare la registrazione dell'intervento di Giovanardi di stamattina. Che sì, poi Giovanardi è stato ospite anche da noi adesso. Perfetto, sì, no, infatti volevo proprio fare riferimento a questo. Lei, mentre leggeva l'Ansa, dove riportava le stesse parole che lui aveva pronunciato questa mattina, ovvero che il ragazzo era morto perché, soprattutto perché era un drogato, pesava 42 kg e perché era un siero positivo, alla sua domanda, lei è vero che ha detto questo? Cioè, leggeva lo stesso, le parole che aveva trasmesso la mattina. No, ma, però mattina, a quel punto Giovanardi ha detto, io mi sto alla dichiarazione dell'ANSA che ho fatto io, la mia dichiarazione successiva. Ho capito, però una persona di quel, con tali responsabilità è appunto un ministro, cioè non può dire queste cose, almeno per quanto... Michele, che cosa rimprovera, no, Giovanardi, come dire, ai giornalisti in questa occasione, in particolare anche a Radio 24 in piccolo, cioè quello di aver estrapolato una frase da una discussione più generale sulla, sulla vicenda Cucchi. A me, a noi è sembrato che questa frase fosse significativa e che potesse essere estrapolata. Sa, la questione di estrapolare una frase dal contesto, allora uno per essere sicuro della, del significato di una frase dovrebbe mandare in onda 50 minuti di trasmissione, in questo caso mezz'ora di trasmissione, così si capisce anche lo stato d'animo di Giovanardi nel momento in cui pronuncia quella frase. Quella frase messa così non era manipolata, era la frase detta da Giovanardi, punto. Dice, è morto per questi motivi qua, indipendentemente da quello che ha detto prima, che dice dopo, io capisco questa cosa. Poi questa gente che si crede di essere in possesso della verità assoluta, nel senso che se lui avesse detto, io ho parlato già con i magistrati, ho avuto modo di leggere le carte e quant'altro, però cioè, non mi sembra il caso che Giovanardi possa dire una cosa del genere. Poi indipendentemente dal fatto che questo ragazzo era tossico, siero positivo, adesso non lo so, mi sto facendo fede alle parole che avete detto prima, che ha detto prima Giovanardi, ma cosa significa? Cioè, questo ragazzo è entrato in quelle condizioni in un istituto pubblico, quale può essere un carcere, doveva secondo me essere portato in ospedale e curato, invece è stato lasciato morire senza peraltro neanche avvisare i genitori, e per me la cosa più brutta è che non sono stati neanche avvisati i genitori. Cioè questo ragazzo con delle ematomi addosso, un qualsiasi medico avrebbe, avrebbe visto queste cose e sarebbero dovuti intervenire a disare i genitori. Va bene Michele, grazie, grazie. Ermanno da Milano, buonasera. Pronto? Cosa sta accadendo? Sì, buonasera Cruciani, Ermanno di Milano. Volevo intervenire a proposito della Santanchè. Sono d'accordo con lei, se si entra nel merito, del fatto che chiaramente non si può ragionare con delle categorie contemporanee, tipo la pedofilia, il fatto che Maometto abbia o meno avuto una moglie di 9 anni. Secondo me però una riflessione da fare potrebbe essere un'altra. Non mi sta bene se qualcuno si dovesse sentire offeso per il fatto che la Santanchè abbia definito, a ragione o meno, Maometto come pedofilo. Non ho capito. Nel senso che rilevo ultimamente in Italia e più in generale in Europa una sorta di eccessiva pruderie nel fatto di stare attenti a dover offendere o meno la religione islamica. Io, ma questo sicuramente è sbagliato, non bisogna essere, quando c'è qualcosa da dire bisogna dirla anche in maniera chiara, senza remore, senza buonismi, siamo d'accordo. Beh, io contesto il fatto che si debba utilizzare l'espressione Maometto pedofilo per attaccare l'intolleranza dell'Islam oppure il rapporto tra religioni islamiche e donne, eccetera, eccetera. Questo contesto. Su questo sono d'accordo con lei, infatti era una riflessione, ripeto, che andava al di là del merito su cui si può essere o non essere d'accordo. Vero è, e chiedo a lei, anche lei, se pensa la stessa cosa, che a volte ci sia veramente un eccesso di pruderie, perché è vero, non c'entra nulla il discorso dei crocefissi, però c'è anche da dire che la motivazione per la quale molti oggi vorrebbero togliere i crocifissi è proprio per il fatto di non voler offendere il bambino musulmano, perché in qualche modo si crea questo problema. Cioè, quello che io metto in dubbio è il fatto che a un certo punto uno debba stare attento a cosa dire o non dire, a cosa esporre e cosa non esporre, per il fatto che qualcuno possa offendersi. No, ma Ermanno, lei ha ragione su questo, non si può sempre pensare, oddio, se dico questa cosa offendo gli islamici, offendo non so quali altri esponenti di quale credo religioso. Su questo lei ha perfettamente ragione, però stiamo parlando di un'altra cosa. Io per esempio sono contrario alla sentenza della Corte Europea sul, sul crocifisso, nello stesso tempo penso che le frasi di Daniela Santanchè su Maometto pedofilo siano proprio concettualmente sbagliate, siano alla radice sbagliate. La ringrazio. Luigi da Lecce, eccoci qui. Luigi, ecco, pronto? Sì, buonasera. Eccoci. Ecco qua. Dunque, in merito, non le faccio perdere tempo, in merito a Giovanardi, credo, diciamo, che da parte di un cristiano, di quelli che naturalmente non perdono occasione a ribadire la loro cristianità, credo che sia stata un'uscita veramente brutta, perché non è possibile, diciamo, che si vadano a considerare esseri umani come carne da macello, insomma, ecco, solo perché hanno delle... Però mi scusi, anche lei qui sta andando oltre, perché non è che Giovanardi ha considerato le persone umane come carne da macello, ha detto un'altra cosa, non ha trattato, ci sono alcune reazioni politiche anche scomposte su questo, cose inumane, delle considerazioni da bestia, non so, ho letto delle cose tremende, anche qua bisogna andarci un po' piano, no? Sì, ma non è la prima volta, diciamo, che l'onorevole Giovanardi fa di queste uscite. Per carità, diciamo, ci sono delle situazioni che prevede l'inclusione in una società, e poi da un cristiano un po' diciamo, disturba questa vicenda. Lo stesso, diciamo, la Santanchè, forse, diciamo, mancanza di ruoli, queste uscite, diciamo, in un momento così particolare, al di là, diciamo, delle situazioni. Io sono d'accordo con lei, diciamo, sulla sentenza della Corte. Non è questo il momento e non sono questi i toni, diciamo, da utilizzare, né da persone di governo né da persone, diciamo, che... No, ma io sono contrario anche a questa storia dei toni, mi scusi, non voglio fare per forza Sebastiano contrario, né voglio darle addosso, Luigi. A me questa storia dei toni mi fa impazzire, non credo che bisogna usare il bon ton nella politica, o che non ci vogliano dichiarazioni forti, o che non si possono dire delle cose anche sconvenienti e corrosive. Si può e secondo me si deve fare, la politica è anche questa. Dopodiché bisogna vedere cosa si dice. Quando uno dice Maometto è pedofilo, per dire gli islamici hanno nei confronti della donna un certo tipo di concezione, si dice semplicemente una sciocchezza, perché la pedofilia non c'entra nulla. Con lei, diciamo, tutte e due le situazioni, diciamo, si incrociano, perché tutte e due vanno in una direzione che la loro appartenenza, diciamo, alla cristianità prevede un pochettino di cautela, diciamo, ma non si tratta questo di buonismo, e non si tratta, perché io mi assumo la responsabilità di dire che il Giovanardi dice carne da macello alle persone che si trovano in quella condizione. Beh, insomma, la sua delega, diciamo, al governo prevede che un buon lavoro, diciamo, e un bocca al lupo al sottosegretario affinché in Italia e ci possa essere sempre meno dei poveri disgraziati, diciamo, che vanno in quella condizione. Per quanto concerne la Santanchè, insomma, lasciamo perdere, diciamo, perché andare nelle trasmissioni al di là dei toni o non toni e creare queste situazioni in un paese che ospita circa 2 milioni di una religione. No, ma bisogna dire le cose anche chiare nei confronti di un certo approccio, di quello che l'Islam prevede nei confronti della donna, della posizione della donna all'interno di certe società islamiche, anche in Italia. Bisogna dire le cose in maniera molto chiara, ma ripeto, l'accostamento tra la Maometto e la pedofilia secondo me è senza senso. Ci sono degli ascoltatori che insistono su questa falsariga. La vera gaffa è che la Madonna ha avuto Gesù a 12 anni, da Luciano da Come. Un altro ancora: forse la Santanchè non sa che San Giuseppe sposò la Madonna a 12 anni e che nell'antichità dare bambini e spose era l'assoluta normalità. Va bene, direi Barbara dalla provincia di Brescia, buonasera. Sì, buonasera, volevo intervenire per la morte del giovane Cucchi. Al di là della tragedia in sé, mi piacerebbe che ai giovani passasse il messaggio che di droga si muore, per cause dirette o indirette, purtroppo di droga si muore. Vabbè, Barbara, non c'è bisogno della morte di una persona per cause che ancora non conosciamo, passata attraverso un arresto e poi gli ospedali, per dare il messaggio sulla droga. È evidente, è così, di droga si può morire, si muore, certamente. Come giustifichiamo i nostri figli? Fino in fondo sono madre, posso capire il dolore, però di droga purtroppo si muore, è inevitabile, prima o poi succede. Sì, d'accordo, ma prima o poi, lei dicendo questo mi fa un ragionamento per il quale prima o poi succede, e dunque, diciamo, la morte di Cucchi fa parte di quelle morti per droga o comunque in cui la droga ha un ruolo fondamentale. Non è vero, perché dalla droga magari si esce a fatica, si può uscire, per cui non è che la morte di Cucchi sia una morte per droga, non lo sappiamo. È ancora tutto da dimostrare, è vero, ma semplicemente volevo dire anche che questo ragazzo non è entrato in un istituto di signorine per buona famiglia, insomma il carcere ha una serie di conseguenze, non dico sia giusto assolutamente, però fa parte del gioco. Ma non è vero che faccia parte del gioco, Barbara, mi scusi, anche questo è un ragionamento perverso. Quando uno dice, Cucchi sì, beh certo era drogato, ma che vuol dire che era drogato? Che era tossicodipendente o che stava cercando di uscire dalla sua tossicodipendenza? Non sappiamo ancora i motivi per cui è morto e comunque la droga non è che passa necessariamente attraverso il carcere, gli ospedali, magari le botte, non lo sappiamo. Non vedo qual è il legame, francamente non lo vedo, se non in quello di colpevolizzare una persona in quanto drogata, dunque di sminuire eventuali responsabilità umane. Poniamo il gioco del caso, diciamo, se il ragazzo non si fosse drogato non sarebbe stato arrestato, non avrebbe incontrato gente malvagia. Non c'è dubbio, se non fosse stato in quel parco non sarebbe stato preso dai carabinieri, dunque non sarebbe successo quello che è successo. Ma certamente la droga ha un ruolo in questa vicenda, in quanto Cucchi era o è tossicodipendente, non lo so, e aveva della droga con sé. Diversi ascoltatori mi segnalano un editoriale sul TG1 di Augusto Minzolini sulla riforma della giustizia che sicuramente farà discutere. Abbiamo tempo per parlarne, andiamo a sentire i titoli del TG2. A Berlino il muro cade simbolicamente una seconda volta, Angela Merkel attraversa con Gorbaciov e Walesa il primo varco aperto nell'89. Riforma della giustizia, domani Berlusconi incontra Fini, fra i temi la riduzione della lunghezza dei processi. Il presidente del Senato Schifani auspica riforme condivise. Primi indagati per la morte di Stefano Cucchi, la famiglia chiede di riesumare la salma, il padre e la sorella TG2 punto di vista, combattiamo contro un muro di gomma. A TG2 in esclusiva le prime immagini di Raniero Busco dopo il rinvio a giudizio per il delitto di Via Poma. Non è giusto, volevo bene a Simonetta, dice. I familiari cercano un colpevole a tutti i costi. Da oggi i parlamentari possono sottoporsi al test antidroga, finora lo hanno fatto in 28, ma non tutti sono favorevoli ed è polemica. Beh, direi per fortuna non tutti sono favorevoli. 800 24 00 24, abbiamo avuto prima in linea Carlo Giovanardi che ci ha spiegato, ci ha detto la sua su quello che lo stesso Giovanardi aveva detto questa mattina in una nostra trasmissione. C'è una polemica anche molto forte su alcune frasi di Giovanardi. Giovanardi le ha volute inserire in un contesto, dice non si può estrapolare una singola frase che per noi resta chiarissima perché l'ha pronunciata alla nostra emittente, perché comunque era chiara. Secondo lui invece andava inserita in un contesto. Non volevo dire, sostiene Giovanardi, che Stefano Cucchi è morto di droga. Volevo dire eccetera eccetera, quello che avete ascoltato. Poi ha detto Giovanardi, mi sono spiegato, ho parlato questo pomeriggio con la famiglia Cucchi. Chiedete alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, qual è stato il tenore di questa conversazione, e noi abbiamo contattato proprio Ilaria Cucchi, che salutiamo. Buonasera. Buonasera. Ha parlato con Giovanardi, buonasera. Sì, esattamente. Io, diciamo, dopo il mio sconcerto rispetto alle dichiarazioni di questa mattina di Giovanardi, sono stata contattata nel pomeriggio e mi ha voluto spiegare le motivazioni delle sue dichiarazioni. Io lo ringrazio di questa telefonata, le accolgo, però rimane il fatto che quelle parole dette relativamente a mio fratello Stefano hanno fatto male a noi familiari e tra l'altro c'erano alcune cose non vere. E comunque torno a ripetere... Per esempio, mi scusi, la interrompo, per esempio la questione della sieropositività, che peraltro non bisognerebbe nemmeno evocare perché è una questione di privacy, naturalmente, no? Esattamente, ma comunque non esiste nessuna sieropositività relativamente a mio fratello, non era sieropositivo. Ma anche se così fosse, ciò non giustificherebbe né il tono di Giovanardi né tantomeno la sua morte. Giovanardi ha ragione, e come aveva ragione il nostro avvocato quando ci aveva avvisati che per arrivare alla verità avremmo dovuto affrontare un processo a Stefano e alla nostra famiglia. È vero, Stefano aveva problemi con la droga, noi questo non l'abbiamo mai negato, ma non per questo questo meritava di morire in quel modo. Lui ha sofferto un lungo periodo in comunità e poi purtroppo ha avuto una ricaduta, non ce l'ha fatta, sappiamo quel, sì, com'è, certo, la certo. della droga. Senta, cos'è che le ha fatto più cos'è che le ha provocato più dolore della parola di Giovanardi? Cioè, innanzitutto, lui come le ha spiegate? Ha cercato di inserirle in un contesto? Come ve le ha spiegate le parole che voi questa mattina avete appreso, magari leggendo, ascoltando qualche telegiornale, che ha pronunciato la nostra radio Giovanardi? Diciamo, il suo voleva essere un modo di puntualizzare ancora una volta quanto la droga possa essere dannosa nella vita delle persone. Questo io lo approvo pienamente. E non mi è piaciuto, però, ripeto, riferito comunque alla situazione di mio fratello, in un contesto che queste cose non, io le trovo veramente non attinenti. Cioè, lei ha pensato che Giovanardi abbia voluto escludere il fattore umano, cioè dire il fatto che suo fratello possa essere stato picchiato, con queste espressioni? Ma guardi, no, non dico questo, non credo che lui si riferisse a questo. Cioè, a voi è dato fastidio il fatto che lui abbia insistito soprattutto, sì, sulla questione della droga? Esattamente, soprattutto perché le trovo cose irrilevanti rispetto a quello che gli è successo. Beh, lo stato di salute, lo stato fisico di suo fratello... La salute di mio fratello era buono, noi abbiamo ovviamente la documentazione che attesta tutto questo, domani tra l'altro la porteremo in Senato perché ci incontreremo con Marini, e quindi noi abbiamo la documentazione, io quindi so quello di cui sto parlando. Certo, certo. Tra l'altro Giovanardi non la conosce, non sa qual è la situazione di salute di mio fratello, quindi non può insinuare queste cose. Io lo ringrazio di questo suo chiarimento e devo dire che l'ho davvero apprezzato, però torno a ripetere che quelle parole in questo contesto erano assolutamente irrilevanti. E come vi siete lasciati? Cioè, c'è stato un chiarimento, ha chiesto scusa? In maniera molto cordiale, ma ripeto, ho apprezzato questa sua telefonata, è stata una telefonata davvero molto cordiale. Tra l'altro devo dirle, signora Cucchi, che sulla sieropositività lui ha detto, anche se un po', devo dire, un po' forzato, un po', abbiamo dovuto insistere un po', ha detto: beh sì, ho detto una cosa che non andava detta, quella sulla sieropositività. Questo credo che ve l'abbia detto anche a voi, no? Esatto, sì. Va bene, grazie, buona serata. Grazie a voi, 20:41, 800 24 00 24, Andrea da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Due cose veloci. La prima è che dal mio punto di vista esistono due vicende. Esiste una vicenda privata e una vicenda pubblica riguardante la morte di questo ragazzo. Senza entrare nel merito della vicenda privata, che merita tutto il rispetto, il dolore, l'accoglienza, la vicenda pubblica invece va, dal mio punto di vista, approfondita, analizzata, e dopo le dichiarazioni di Giovanardi mi fa ricordare tante altre cose. L'espressione oggi di Giovanardi per me è il prosieguo di un modo di pensare che in qualche modo porta sempre a dire: se ti sei preso qualcosa te lo sei cercato. Quindi questo funzionava 20 anni fa, quando si cominciò a parlare di AIDS in Italia, quindi c'era il famoso alone viola e si faceva la caccia alle streghe dicendo: eh beh, ma se ve lo siete presi è perché ve lo siete cercati. Dunque, secondo lei, mi scusi Andrea, dietro le parole di Giovanardi c'è questa logica, cioè peraltro non credo che Giovanardi la condivida, almeno non lo direbbe mai. Adesso non voglio fare il processo alle intenzioni, per carità, non lo faccio mai. Cioè, secondo lei Giovanardi, il retropensiero di Giovanardi sarebbe questo: se uno si droga può succedere anche quello che è successo a Stefano Cucchi, è così? Non solo, esiste solo un modo nella mente di qualcuno che produce questo male, e quindi la droga non è un fenomeno sociale ma è una malattia, e invece in alcune sue parti importanti è anche un fenomeno sociale. E c'è proprio una visione, è una visione distorta dell'uomo, della società e del modo di reagire a questo. E l'esempio classico è l'espressione con le butade di oggi. Mi dispiace, perché oggi nella società ci sarebbe bisogno di ben altro, e faccio un piccolo, creo un piccolo nesso, un piccolo cortocircuito collegandomi con la religione e le dichiarazioni della Sant'Anché. Nella nostra società oggi c'è bisogno di cultura, di intelligenza, di apertura. Ci sono persone che si impegnano perché si crei un dialogo tra le religioni, e questo si fa a San Francesco d'Assisi piuttosto che in altre parti del mondo, ma ogni tanto c'è qualcuno che usa la parola come un randello per dividere, e questo fa più male a noi che a quei 50 o 100 milioni di musulmani che oggi ci troviamo in casa e in Europa. Non dimentichiamoci che entro il 2050 è previsto che l'intera Africa sia islamizzata, questo la dice lunga. Io ho due bambini piccolissimi e spero che loro possano vivere in una società un po' più aperta, dove queste cose vengano considerate, questi atteggiamenti vengano considerati come macchiette o la satira di un folle piuttosto che... Va bene, allora l'editoriale di Minzolini sicuramente se ne parlerà nelle prossime ore, come normale che sia. Di questa sera il direttore del TG1, la prima parte è dedicata a Antonio Ingroia, sentite. Qualche giorno fa il procuratore di Palermo Ingroia ha giudicato pericolosa la politica del governo sulla giustizia. Un'analisi sorprendente per un magistrato che si è dato un obiettivo ancora più improprio, quello, sono parole sue, di ribaltare il corso degli eventi. Un programma politico che Ingroia ha giustificato con la difesa della Costituzione. Solo che la Costituzione che vuole salvaguardare Ingroia, almeno su un punto sostanziale, non è quella originale. Nella Carta, infatti, insieme all'autonomia della magistratura, i padri costituenti, cioè i vari De Gasperi e Togliatti, inserirono l'istituto dell'immunità parlamentare. Non lo fecero perché erano dei malandrini, ma perché consideravano quella norma necessaria per evitare che il potere giudiziario arrivasse a condizionare il potere politico. Vabbè, insomma, poi Minzolini prosegue sulla necessità, secondo lui, di reintrodurre l'immunità parlamentare. In effetti ci siamo dimenticati una delle cose che ha detto Ingroia, cioè dire ribaltare il corso degli eventi. Questo ha sostenuto Ingroia. Io, oltre a dire, come ha fatto Facci, che Ingroia dovrebbe entrare in politica per dire queste cose, dico anche che in questo momento la compatibilità tra Ingroia e alcune inchieste che sta conducendo non ce la vedo. Barbara dalla provincia di Brescia, allora, cosa ci voleva dire sulla droga? Sì, e volevo completare il pensiero dicendo che forse sarebbe un'occasione, forse non vorrei fosse un'occasione mancata per dire ai ragazzi, come ho ribadito prima, che di droga si muore. Si muore perché il corpo non reagisce più, si muore perché si incontrano in carcere, se è ancora tutto da dimostrare, l'abbiamo già detto mille volte, che si può essere picchiati, tante cose voglio dire, c'è un destino per ognuno segnato, ma c'è anche un libero arbitrio che secondo me fa la parte grossa della situazione, solo questo. Ho capito, grazie. Gianluigi Salerno, velocemente, buonasera. Buonasera, io relativamente al caso Stefano Cucchi, volevo dire che sono rimasto sorpreso relativamente a queste indiscrezioni sulle prime iscrizioni al registro degli indagati, e mi spiego. Cioè, mi aspettavo che già in questa fase di indagine fossero già individuati più o meno quelli che potevano essere e potrebbero essere responsabili del reato che si è consumato a carico del sì, il fatto è che in Italia vengono troppo enfatizzate le prime comunicazioni giudiziarie, gli avvisi di garanzia e quant'altro, sono semplicemente delle cose dovute, vengono sentite delle persone, vengono mandati degli avvisi di garanzia, si fanno delle indagini, poi noi enfatizziamo troppo queste cose e già inquadriamo i colpevoli, in realtà non è così. Non è così, ma io mi aspettavo almeno in questa fase la procura individuasse delle responsabilità, chiaramente o a carico, voglio dire, di coloro che avevano tenuto Cucchi in fase, voglio dire, di arresto, oppure in fase di custodia presso la casa. Ho capito, ancora non c'è. Muovendo, credo, a 360, volevo anche la considerazione in merito, grazie. No, scusi Gianluigi, la perversione nella comunicazione che c'è in Italia quando si mettono dei visi di garanzia è del tutto evidente. Lei dice si aspetta chiarezza, beh, tutti ci aspettiamo chiarezza, sono passati 3-4 giorni, non è che siano passati mesi o anni, come spesso accade in Italia, per cui vediamo, insomma, speriamo che non succeda come in altri casi. Emanuele da Rimini, buonasera. Ah, salve, buonasera, ho telefonato in realtà quando lei cercava di far capire certe cose al buon Giovanardi, però nell'ultimo mese, tanto l'abbiamo visto, sentiamo Marrazzo che il venerdì dice una cosa, il sabato ne dice un'altra, e sentiamo il buon Giovanardi che di mattina parla col suo collega e racconta certe cose, anche in una maniera, diciamo, boriosamente emiliana, e poi la sera ne racconta tutt'altra, anche di fronte a registrazioni, pronto a dire no, non è vero, no, non è assolutamente così. Io mi sono veramente stancato di sentire delle bugie, credo che ci siamo stancati tutti di sentire delle bugie, delle fandonie che di continuo vengono tirate fuori ad arte per cercare di togliere parole da quelle che si sono dette. È ora di dire la verità. Stamattina ha detto certe cose, stasera ne dice altre. Io spero che mi dia anche lei manforte in questa cosa qui, perché non credo di essere l'unico che l'ha sentito stamattina e stasera l'ha sentito riferire altre cose. Sì, Emanuele, guardi, l'ho detto anche a Giovanardi, non si può aspettare un nuovo politico, un nuovo pubblico, che le dichiarazioni vengono poi inserite in un contesto di una trasmissione che dura 20-30 minuti. Alcune parole sono quelle e restano, al di là del fatto che fosse una risposta a Ferrero, che poi bisogna inquadrare queste parole in un pensiero più generale o in quello che Giovanardi pensa della vicenda Cucchi. Quando uno dice Cucchi è morto, 1, 2, 3, quello significa, non significa altro. Emiliano da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Sempre sul caso Cucchi volevo intervenire, Cruciani. Dunque, io volevo fare una considerazione un po' generica, nel senso di dire che secondo me in un paese normale la vicenda Cucchi non sarebbe neanche passata, diciamo così, al telegiornale. Probabilmente io ritengo che sarebbe rimasta nelle pagine della cronaca locale o comunque, diciamo, a un livello molto più basso di quello che ha assunto. Perché? Io ritengo che nelle informazioni ci sia una sorta di un po' di mano oscura e voglio dire che anche legata ai rapporti politica, quindi potere e giornalismo, informazione in generale, che orienta secondo me in maniera strategica e politica certa informazione. No, mi scusi, non ho capito questa cosa. Perché in un altro paese la vicenda Cucchi? No, questa ovviamente da un mio giudizio personale, io la ritengo una vicenda più di cronaca, a meno che non escano fuori delle verità che poi eventualmente darà la magistratura, che ci porteranno a fare considerazioni di inquietudine o quant'altro. Però secondo me siamo di fronte a un caso di un ragazzo che è morto per causa da appurare, in una vicenda complessa che è quella della carcerazione, ma io non credo che sia l'unico caso in Italia che succede che qualcuno muore nelle carceri, insomma, voglio dire, ma adesso non vorrei trarre giudizi. No, Emiliano, lei ha ragione quando dice che spesso diamo giudizi troppo severi da subito. Si è parlato di omicidio di Stato, da subito si è parlato di responsabilità dei carabinieri, da subito si è parlato di pestaggio, e su questo sono d'accordo con lei. Dopodiché sul fatto che una vicenda come quella di Cucchi in un altro paese sarebbe rimasta lì appesa alla cronaca locale, questo non credo. D'accordo, io vorrei precisare questo: la vicenda Cucchi è iniziata diciamo mettendo sull'accusa i carabinieri. Non è iniziata mettendo sull'accusa nei suoi colleghi di cella, perché io penso che qualunque persona di fronte a una notizia del genere la prima reazione che ha sentendo che è morto un ragazzo in un carcere è quella che probabilmente è stato picchiato dai colleghi di cella più che dai carabinieri mentre lo interrogava. Questa è, diciamo, la mia impressione, ma la mia malafede viene da un'altra considerazione, e cioè dal fatto che la notizia ha assunto gli onori della cronaca contemporaneamente al caso Marrazzo. E anche in quel caso c'era, come dire, sulla graticola il voler mettere i carabinieri. No, mi scusi Emiliano, adesso allora io ritengo. Mi scusi, lei è un carabiniere? Lei è un carabiniere? No, io non sono un carabiniere, io sono un professionista. Io ritengo che sia stata una notizia manipolata accusando i carabinieri per salvare Marrazzo e per oscurare la vicenda di Marrazzo. No, guardi, questa è dietrologia. Non è, siccome i carabinieri erano tra i protagonisti della vicenda di Marrazzo, non mi pare che parlare dei carabinieri nel caso Marrazzo sia sbagliato, come non mi pare, essendo stato Cucchi fermato dai carabinieri, che parlare o cercare di indagare sulle responsabilità dei carabinieri sia di per sé sbagliato. Dunque nessuno vuole mettere in mezzo i carabinieri, come dice lei, ma dobbiamo chiudere con Nicola da Torino, Marco da Roma e altri ancora. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.